Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non abbiamo mai parlato di famiglie reali a Möbius e questa sera sarà la prima volta. Buonasera a tutti e tutte, i titoli di questa puntata. La causa dell'estinzione degli Asburgo? I matrimoni incestuosi. Lo rivela una ricerca spagnola. Questa volta è proprio simile alla Terra, è il pianeta la cui esistenza è stata annunciata questa settimana, ma la similitudine, per il momento, riguarda solo le dimensioni. In una nuova puntata dei nostri approfondimenti tecnici sul terremoto, cerchiamo di capire come si può verificare la tenuta sismica di una casa qualunque. Quando il nostro cervello funziona come quello degli altri esseri viventi. Le neuroscienze sono intenzionate a scoprire quali sono le caratteristiche di base della mente animale. Come tracciare con dispositivi a radiofrequenza e satellitari il traffico illecito di rifiuti in Italia. Poiché si fidavano poco di tutti e di tutto, cosa facevano le famiglie reali? Si accoppiavano fra di loro, al proprio interno, insomma, molto in famiglia. E cosa succedeva? Chiara Albicocco ve lo dice qui, subito. Rachitico e sterile. Così morì a 39 anni Carlo II, ultimo discendente della dinastia degli Asburgo in Spagna. Se fossero stati un po' più attenti i suoi antenati e avessero privilegiato legami d'amore anziché matrimoni di circostanza dettati da ragioni di Stato tra zii, cugini e nipoti, forse non sarebbe finita così. Infatti, la più grande dinastia regnante in tutta Europa per 6 secoli si estinse proprio per i troppi legami incestuosi che si intrecciarono nel corso dei secoli. Un gruppo di ricercatori spagnoli dell'Università di Santiago da Compostela si è preso la briga di studiare gli incroci genetici della dinastia degli Asburgo che regnò in Spagna durante il periodo che va dal 1500 al 1700. Che cosa hanno scoperto? L'ultimo rampollo di casa Asburgo, Carlo II, nato dal matrimonio tra Filippo IV e Maria Anna d'Austria, deve la sua gracilità non ad una maledizione, come si narrava a quel tempo, ma ad un numero di geni identici ricevuti dal padre e dalla madre. Più del 25% dei suoi geni erano uguali a quelli dei genitori. Qui, a questo punto, dobbiamo introdurre un concetto importante, quello di coefficiente di consanguineità. La consanguineità deriva dall'accoppiamento fra esseri umani tra loro parenti ed il loro valore, espresso come coefficiente di consanguinità, è pari a metà della parentela tra i due genitori. Oscilla tra valori che variano dallo 0 al 100% ed esprime la frazione media del patrimonio genetico che un individuo riceve, identico sia dal padre che dalla madre, in virtù del fatto appunto che i genitori erano tra loro imparentati. È un pochino complicato da spiegare a parole, con uno schema grafico sarebbe un pochino più semplice, ma vi faccio un esempio. Se si accoppiano tra loro un uomo e una donna, e questa donna è la figlia dell'uomo, in questo caso il rapporto è padre-figlia, la parentela tra due soggetti è pari a un mezzo, cioè espresso in percentuale al 50%. Se il padre e la figlia, accoppiandosi incestuosamente, generano un figlio, la sua consanguinità sarà uguale a metà della parentela tra i due genitori, quindi sarà pari a un quarto, al 25%, che è proprio quella percentuale riscontrata dai genetisti spagnoli su Carlo II, un valore 10 volte superiore rispetto al suo antenato Filippo il Bello, il primo Asburgo che regnò in Spagna. Infatti lui presentava un livello di consanguinità pari al 2,5%, quindi di 10 volte inferiore. Con l'aumentare della consanguinità tra i genitori aumenta anche la probabilità della comparsa di malattie ereditarie rare e recessive. Ed è proprio per questa ragione che dei 34 rampolli nati tra il 1527 e il 1661 dai matrimoni degli Asburgo incestuosi, ne morirono 10 durante il primo anno di vita e altri 17 se ne andarono prima ancora di compiere 10 anni. praticamente una strage. Infatti l'80% dei piccoli Asburgo non arrivò nemmeno all'adolescenza. È un dato preoccupante, ma molto utile per i ricercatori spagnoli che hanno studiato questo albero genealogico. Infatti hanno dimostrato quanto alta la mortalità infantile fosse strettamente collegata al grado di parentela dei genitori. A questo punto credo sia utile approfondire un altro passaggio fondamentale della genetica di popolazione, che è l'inbreeding, detto anche in incrocio. Dicesi inbreeding l'accoppiamento tra individui consanguigni e con parentela stretta. Di solito viene usato questo termine in zootecnia per identificare un allevamento di animali geneticamente identici ottenuti attraverso l'incrocio tra figli degli stessi genitori. Negli esseri umani invece ha conseguenze problematiche, come dimostra anche lo studio sugli Asburgo. Negli altri animali viene utilizzato per fissare determinati caratteri allo scopo di migliorare la discendenza e di riunire in questa le buone caratteristiche delle due linee genitrici. Comunque, a lungo andare, gli incroci ripetuti tra consanguigni portano a pericolose conseguenze, quali scarsa fertilità, sia nei maschi che nelle femmine, alta mortalità della prole e una serie di patologie anche molto gravi. Ma torniamo agli Asburgo di Spagna. I genetisti spagnoli parlano chiaro. La causa del rachitismo, della sterilità e anche probabilmente delle scarse capacità intellettive di Carlo II, l'ultimo re di Spagna di cui abbiamo parlato prima, è proprio lo scarso apporto di sangue estraneo alla famiglia. La ricerca però non termina qui. Infatti gli scienziati pensano di passare al vaglio anche i geni del ramo austriaco degli Asburgo e poi toccherà anche al pedigree dei Borbone. Questa settimana è stata la settimana del piccolo pianeta e per parlare del piccolo pianeta, sempre via Skype, raggiungo Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera a tutti. Sei tornata a Boston? Sì, sono tornata al freddo. Allora, qui ritorniamo nel tuo campo specifico, ricordiamolo ogni tanto che tu lavori in astrofisica. Senti, mercoledì scorso c'è stato l'annuncio di questo piccolo pianeta e anche di un altro di cui ci parlerai, ma insomma si è parlato di piccoli pianeti. Perché ci interessano piccoli, ricordiamolo? Ci interessano piccoli, nel senso ci interessano i pianeti più simili alla Terra, perché vogliamo vedere se c'è la possibilità di vita su alcuni pianeti intorno ad altre stelle e in modo da avere la composizione simile a quella terrestre, il pianeta deve essere di una massa appunto. Il più possibile simile alla Terra, insomma. Esattamente, è interessante trovare anche dei pianeti simili a Giove, se ne sono trovati molti, però chiaramente questi pianeti gassosi non c'è speranza di trovare la vita. Sì, infatti negli ultimi anni, addirittura negli ultimi mesi, insomma, 2008-2009 di scoperte di pianeti ce ne sono state tante, questo è significativo perché similterra, che dimensioni ha? Questo è circa due volte la massa della Terra, 1.9 volte la massa della Terra. Lo dobbiamo a uno svizzero? Sì, un gruppo di ricerca svizzero, capitanato da Michel Mayor, che ormai è noto in astrofisica come il cacciatore di pianeti. Hanno usato uno strumento che si chiama HARPS, applicato a un telescopio dell'ESO, un telescopio dal diametro di 3.6 metri, alla Silla, in Cile, questo telescopio. Senti, mi pare che sia uno strumento costruito apposta per andare a caccia di piccoli pianeti. Sì, esattamente, è uno spettrografo costruito per cacciare pianeti e quindi ha bisogno di molta precisione. Questo spettrografo praticamente misura delle differenze nella velocità della stella con una precisione di 1 metro al secondo, che è veramente bassissima. Della stella intorno a cui ruotano i possibili pianeti, stai parlando. Esatto. Di questo. Esatto, perché quello che facciamo non vediamo direttamente i pianeti, ma quello che misuriamo è la velocità della stella e come questa viene un po' perturbata dalla presenza di uno o più pianeti, come in questo caso che ci orbitano intorno. Ecco, di solito con i grandi pianeti si può contare sul fatto che ci siano delle masse consistenti, ma con questo strumento evidentemente si riescono a calcolare anche per pianeti molto piccoli delle perturbazioni nel moto della stella. Esatto, sono delle perturbazioni minuscole, appunto, della velocità dell'ordine di un paio di metri al secondo. Quindi, come dicevi prima, veramente poco. Come si chiama questo pianetino? Allora, questo pianetino ha come sempre un nome molto poco affascinante, si chiama Gliese 581e. E. E, perché ci sono anche gli altri pianeti, sono BCD, mentre 581A è usato per la stella, per questa nana rossa che ospita questo piccolo sistema planetario. Ah, quindi è una famiglia di Gliese, stella più pianeti. Gliese 581, la stella è denominata con la lettera A, e poi in ordine di scoperta ci sono i pianeti B, C, D e quest'ultimo E. Sono tutti piccoli? E dunque, Gliese B è alle dimensioni di Nettuno, per cui è 16 volte la massa terrestre. Poi abbiamo due superterre, li chiamiamo, C e D, che hanno rispettivamente 5 e 7 volte la massa terrestre. E poi c'è questo pianetino, quello che finora è più piccolo, è quello più vicino alla massa terrestre. Purtroppo è anche troppo vicino alla stella per ospitare la vita, è troppo caldo. Potrebbe avere, date le dimensioni e quindi la sua massa, anche dei mari, perché magari lo spieghi meglio tu adesso, che l'acqua sia liquida è strettamente connesso alla massa del pianeta, però dicevi poco fa che è troppo vicino e quindi se c'è acqua è evaporata. Se c'è acqua evaporata probabilmente non ha nemmeno un'atmosfera, però in questo articolo, questa scoperta che è stata appena pubblicata, hanno anche fatto delle misure più precise su una delle superterre, su appunto Gliese 581D, e si sono resi conto che questo pianeta, che ripeto ha 7 volte la massa della Terra, si trova nella zona abitabile, cioè nella zona in cui ci potrebbe essere acqua liquida sulla superficie. Potrebbe essere il primo pianeta liquido con una superficie liquida mai trovato finora. Il problema è che è sempre molto, molto lontano. La stella è situata a 200.000 miliardi di chilometri, sono 20,5 anni luce. 20 anni luce. Sì, in termini astronomici è vicino, però chiaramente... Sì, in termini di linee aeree è un po' lontano. Bene Paola, al prossimo pianeta, ciao. Alla prossima, ciao. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ci siamo, anche questa volta sta per arrivare il quiz. La domanda di questa settimana si basa su un esperimento. C'è un signore o una signora che sono seduti a un tavolo. Diciamo un signore, va. Sul tavolo poggia la mano sinistra, ma uno sperimentatore con un piccolo paravento fa in modo che lui non possa vederla, questa mano sinistra, mentre vede davanti a sé una bella mano, molto realistica, ma di gomma. Lo sperimentatore tocca con una punta, che provoca un leggero dolore, la mano vera e quella di gomma. Cosa succede? Prima possibilità. Il soggetto sente molto meno male di quanto sentirebbe se non ci fosse la mano di gomma. Ci scriverete male. Seconda possibilità. Sente molto più male, invece, proprio perché c'è anche la mano di gomma. Ci scriverete più. Terza possibilità. Il soggetto ad un certo punto, se viene toccata con la punta solo la mano di gomma, sente ugualmente la puntura. Ci scriverete uguale. Dove si scrive? Con il solito SMS 349-238-6666 e il libro che si vince questa settimana è Cronologia di una scoperta di Rita Levi Montalcini, edizioni Baldini Castoldi, Dalai, libro che non potevamo non scegliere per fare gli auguri per i 100 anni a Rita Levi Montalcini. In collaborazione con IBS.it. E infatti, signora Rita, auguri! Noi siamo un settimanale di scienze e quindi del suo Nerve Growth Factor, il fattore di crescita del sistema nervoso, abbiamo parlato più volte. Questa scoperta che per lei, signora Rita Levi Montalcini, ha significato un premio Nobel. E un paio di volte l'abbiamo anche intervistata. In questi giorni tutti i media hanno parlato di lei e delle sue ricerche. Allora Möbius, che di scienza si interessa sempre e non solo quando una ricercatrice compie 100 anni, ancora auguri signora Rita, ci siamo detti, beh, tocca a noi fare qualcosa di diverso. Quindi le facciamo gli auguri in due modi. Il primo è questo. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. Sente, è la grande Rita Hayworth nel mitico film Gilda, perché ci siamo detti, per noi italiani, quali sono le due mitiche Rita? Una è la Hayworth, l'altra storica icona insieme a Marilyn Monroe, e l'altra è lei, signora Rita. La Hayward si vestiva un po' diversamente però da lei, però siete sempre tutte e due molto eleganti. Sì, possiamo anche pensare cosa sta pensando qualora ci stesse ascoltando, che fra le sue ricerche e Rita Hayward c'è una relazione significativa, ma di questo non parliamo e lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori. Invece questi sono gli AC/DC, la furiosa band australiana. Stanno eseguendo Brain Shake, scuotimento di cervello, scossa al cervello. Abbiamo la quasi certezza che questa musica non è proprio quella che lei ama maggiormente. Però chi lo sa, lei è una donna sorprendente, questo è certo. Auguri ancora, signora Rita. Mi ha raggiunto qui in studio Maurizio Melis. Ciao Maurizio. Ciao Federico. Seconda puntata che Moebius dedica ad approfondimenti di tipo tecnico-scientifico sul terremoto. Ne abbiamo già fatto uno, ne facciamo un altro adesso. Lo spirito è quello di mettere i puntini sugli, proprio sugli aspetti scientifici e tecnici. È perfettamente comprensibile che quando avviene una tragedia di questo genere anche questi aspetti si inseriscano in un clima che è fatto di emotività, di paure, di dubbi, di grandi incertezze sul futuro, e quindi ci possono essere delle imprecisioni, delle cose inesatte, come anche delle cose assolutamente esatte. Noi allora questa sera facciamo una seconda puntata cercando di capire alcuni punti specifici appunto di questa situazione, ripeto, dal punto di vista tecnico-scientifico. È nostro ospite l'ingegner Guido Magenes. Buonasera Magenes. Buonasera. Noi ci siamo già sentiti l'altra puntata. Lei appartiene all'EUS Center, che è un centro di eccellenza per quanto riguarda tutto ciò che è l'ingegneria sismica, e infatti siete praticamente mobilitati ormai da quasi un mese per la vicenda aquilana. Allora, Maurizio. Sì, dunque, appunto cerchiamo un po' di fare il punto. Intanto sono iniziati i sopralluoghi, anzi a questo punto sono uno stadio abbastanza avanzato. Però forse è il caso di spiegare che questo primo sopralluogo è in grado di fare una prima scrematura, ma poi cos'altro bisognerà fare? Innanzitutto questi sopralluoghi erano mirati principalmente a capire quali edifici sono agibili e quindi immediatamente fruibili sostanzialmente, e quali edifici invece diciamo possono essere considerati agibili dopo però interventi di emergenza, e quali sono invece edifici che invece non sono agibili e che richiederanno quindi un intervento molto più pesante, che potrà essere o la demolizione oppure certo, un intervento di rinforzo e ristrutturazione comunque molto consistenti, che quindi richiederanno parecchio tempo. Ecco, ma quindi questi sopralluoghi già danno un quadro da questo punto di vista, o sono necessarie altri tipi di analisi su almeno su una quota di edifici che probabilmente sono dubbi? Dunque, questi sopralluoghi sono stati fatti con criteri e metodi speditivi tipici dell'emergenza post terremoto, quindi basati principalmente su quello che si può vedere da dell'edificio. C'è tutto un linguaggio delle crepe, per esempio. Sì, esattamente. Soltanto in alcuni casi noi siamo riusciti, avendo un laboratorio mobile, a fare qualche prova di tipo sperimentale, ma è un'eccezione, nel senso che la maggior parte delle squadre dei rilevatori semplicemente andavano a ispezionare gli edifici guardando le lesioni e giudicando quello che poteva essere lo stato del fabbricato. Un po' più del 50% degli edifici ispezionati finora sono stati dichiarati agibili. Più o meno un quarto invece sono, diciamo, non agibili, però con interventi rapidi potrebbero essere considerati agibili, e poi invece c'è sicuramente una porzione di edifici, potrebbe essere grosso modo un quarto di quelli che sono stati rilevati finora, che non sono agibili. Tenete conto anche che il grosso dei rilievi sono stati fatti nelle zone quelle diciamo un po' meno disastrate, nel senso che attorno al centro storico, cioè le zone in cui c'era maggiore probabilità di poter trovare... Di poter dare l'agibilità e consentire alle famiglie di tornare, insomma, in casa. Cioè voi avete incominciato da quelli meno danneggiati, quindi quando si parla degli edifici più danneggiati e si cerca di capire anche qual è stata, diciamo, la loro storia, magari controversa dal punto di vista della costruzione, su quello di fatto non ci sono state già delle vostre analisi? Delle analisi approfondite, no, diciamo che ad esempio noi siamo stati coinvolti principalmente nella valutazione dell'ospedale, in cui è emerso che fondamentalmente l'edificio si è danneggiato, anche pesantemente, però fondamentalmente la struttura ha retto, nel senso che il progetto era un progetto degli anni 60, poi è stato costruito nel corso degli anni, la costruzione è durata molti anni, sì. In ogni caso non c'era il concetto in quegli anni di una progettazione che in qualche modo cercasse di limitare il danno nel caso di un terremoto, anche violento, ma soprattutto anche non c'era il concetto di garantire l'operatività della struttura anche dopo un terremoto violento. Questa è una cosa estremamente importante appunto per le strutture come gli ospedali. Quindi non si può dire o non si può dire, mi scusi, se c'è o non c'è dolo? Io credo che in questo momento non lo si possa dire, nel senso che ci sono sicuramente alcune parti della costruzione che sono in qualche modo state costruite magari con scarsa attenzione ai dettagli costruttivi. In prima battuta la qualità dei materiali strutturali, dalle prove che sono state fatte in situ, che vanno prese con le molle comunque, mm-hmm. La qualità dei materiali non sembrava così scadente, quindi si tratta principalmente di errori di concezione magari strutturale, di dettagli, che però possono essere giustificati dal fatto che quelle porzioni di ospedale erano state costruite negli anni 70. Però, ripeto, adesso ci sono alcuni casi, i casi diciamo più eclatanti, sì, come l'ospedale, la casa dello studente, la prefettura, in cui bisogna veramente approfondire caso per caso, perché è difficile fare delle generalizzazioni. Non si esclude che ci possano essere stati delle gravi negligenze di vario tipo, insomma. Ecco, quindi quello che emerge abbastanza chiaramente è una situazione molto diversificata. All'interno di questa situazione così diversificata emerge un leitmotiv di qualche tipo? Per esempio, si può dire che gli edifici pubblici erano generalmente messi male, diciamo, rispetto agli edifici privati, oppure che gli edifici di un certo periodo, per esempio, sono stati più soggetti a crolli, oppure che le sopraelevazioni sono state quelle che hanno retto o meno, i famosi recuperi di mansarda e così via. Sì. Effettivamente la situazione è molto diversificata. Da quello che abbiamo visto, innanzitutto là dove non c'è stata manutenzione, sicuramente gli edifici erano in condizioni peggiori. Noi abbiamo fatto dei sopralluoghi in alcune scuole, mm-hmm, per esempio in zone in cui lo scuotimento non è stato particolarmente elevato, per esempio nella zona di Avezzano. E abbiamo trovato edifici che erano in condizioni completamente diverse, ma a prescindere dal terremoto, nel senso che abbiamo trovato una scuola che era in condizioni di manutenzione egregie, anche la concezione strutturale, in quanto il progetto era abbastanza recente, lasciava intendere una costruzione decisamente solida per quel che riguarda anche la resistenza al sisma. Abbiamo visto altre costruzioni più vecchie in condizioni di manutenzione assolutamente quasi inesistenti, mm-hmm, con corrosione delle armature, perse i copriferri, infiltrazioni d'acqua, eccetera, e queste strutture hanno avuto quindi in un certo senso maggiori danni, pur essendo i danni abbastanza modesti per la distanza dall'epicentro. Un caso molto interessante è stato quello di una caserma in cui c'erano 6 palazzine identiche costruite nella stessa epoca. Ecco. Su 2 palazzine erano stati fatti interventi di adeguamento sismico e sulle altre no. Le 2 palazzine su cui sono stati fatti gli interventi di adeguamento, che non sono stati interventi particolarmente complicati, pesanti, un comportamento egregio, danni decisamente modesti, gli edifici sono assolutamente agibili. Le altre palazzine invece sono o in parte inagibili, una addirittura direi che è molto vicina al crollo, ecco. Quindi questo è un caso abbastanza emblematico di come la prevenzione, no? Quindi la manutenzione, l'intervento sulla costruzione esistente può veramente cambiare le cose in modo drastico, significativo. Dunque, ecco, rispetto quindi alle molte voci circolate nelle ultime settimane riguardo un numero sorprendente di edifici recenti crollati, rispetto alla questione della sabbia di mare. Siamo in grado in questo momento di escluderlo o di affermarlo con certezza, insomma, o dobbiamo ancora aspettare un po'? Bisogna aspettare ancora un po'. Io ho l'impressione che sicuramente la sabbia di mare c'entri poco, magari potranno esserci stati degli errori anche di progettazione o di concezione strutturale, ma la sabbia di mare mi sembra veramente una cosa abbastanza improbabile, visto che ci troviamo anche in una zona abbastanza lontana dal mare, quindi non riesco a capire anche quale potrebbe essere la convenienza economica di far venire la sabbia dal mare. Dalla costa. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo parlando di aspetti tecnici del terremoto con l'ingegner Magenes di EUR Center, che è un centro di eccellenza per l'ingegneria sismica. Ingegnere, terremoto vuol dire crepe nelle case, ma se non si vedono delle crepe, può esserci comunque qualcosa di critico, di pericoloso, per esempio nelle fondamenta? È una cosa abbastanza rara, nel senso che di solito se ci sono grossi problemi per quel che riguarda la fondazione, il terreno di fondazione, solitamente ci sono problemi evidenti anche prima dell'evento sismico, cedimenti differenziali e quindi apertura di lesioni nel tempo. Non escludo che in certi casi, in condizioni particolarmente problematiche, pendii instabili, magari case costruite su frane, su paleofrane, ci possano essere stati fenomeni di questo tipo, però bisognerà studiare con attenzione anche proprio la distribuzione del danno e quelle che possono essere i cosiddetti effetti di sito. Perché sì, appunto, ricordiamo che il terremoto a pochi metri o decine di metri di distanza può produrre effetti diversi, perché ci sono lì delle condizioni locali diverse, una superficie di appoggio che assorbe o meno le onde sismiche. Esattamente. Però ecco, nella maggior parte dei casi i problemi di solito sono alle strutture in elevazione. Senta, dunque, un'altra domanda che probabilmente molti italiani si stanno facendo, avendo comunque assistito a quanto è successo, io abito in una zona sismica, non so se casa mia, nel momento in cui arrivasse un terremoto, resisterebbe o meno. Voglio verificarlo. A chi mi devo rivolgere, tanto per cominciare? Che cosa devo aspettarmi che venga fatto dal tecnico? Dunque, è un po' come quando si è malati e bisogna trovare il medico giusto. È un'analogia abbastanza, direi, appropriata, perché innanzitutto bisogna rivolgersi a un tecnico che abbia le competenze adeguate, quindi ingegneri, architetti che abbiano, diciamo, esperienza comprovata per quel che riguarda la progettazione sismica. Quello che c'è da attendersi è che il tecnico faccia innanzitutto una raccolta di informazioni abbastanza completa sulla storia dell'edificio, sulla costruzione, sulle eventuali trasformazioni dell'edificio nel tempo, faccia dei rilievi, soprattutto quando magari non esiste una documentazione. Se l'edificio è molto vecchio, per esempio, cosa che capita spesso. Che faccia magari anche qualche sondaggio preliminare, si può arrivare semplicemente ai semplici scassi localizzati, giusto pensando all'edificio in muratura, per capire intonacato, per capire come è fatta la muratura, di che qualità è la muratura. È indispensabile riuscire a rimuovere l'intonaco da qualche parte, capire come è fatta, vedere la qualità della mano. Quindi c'è bisogno, diciamo, di un carotaggio, di un sondaggio abbastanza approfondito in molti casi, non basta un'occhiata. Quando si va, diciamo, il carotaggio già è un passo più avanti, nel senso che può essere un prelievo di materiale che può essere anche mirato poi ad eseguire delle prove meccaniche. Si possono fare delle cosiddette endoscopie, nel senso con degli strumenti ottici, diciamo idonei, andare a guardare all'interno della muratura. Il livello di indagini e l'approfondimento che si può avere per quel che riguarda questo tipo di prove è piuttosto differenziato in base alla situazione, ecco. Che va valutata comunque caso per caso. Ecco, da questo punto di vista un ingegnere normale, diciamo un ingegnere edile, non basta quindi. E come faccio io a sapere che quella persona ha una storia di acquisizione di competenze nel campo della valutazione di questo tipo di problematiche? Perché mi pare di capire che non esista una certificazione in questo campo. Infatti questo è un problema. Ed è il problema che abbiamo anche quando cerchiamo qualcuno che deve curarci una malattia, certo. Nel senso, quindi è un problema abbastanza simile. Deve cercare di capire di, in qualche modo, raccogliendo informazioni, quali sono i professionisti nell'ambito del proprio territorio che godono di maggior stima e che hanno un curriculum magari anche provato. Ecco, mi scusi, ma il lavoro di intelligence spetta al privato cittadino o c'è un centro di competenza, qualcuno a cui rivolgersi? C'è un numero di telefono che uno può tentare di chiamare anche in modo informale? Sì, perché qui il problema non è del cardiologo bravo o cattivo, qui il problema è se c'è un cardiologo. Non ci sono numeri di telefono di questo tipo. Se, non so, magari si può chiedere qualche informazione, che ne so, ai centri universitari vicini, piuttosto che rivolgersi all'ordine degli ingegneri e in qualche modo cercare di avere informazioni per quel che riguarda professionisti che hanno avuto esperienza. Mi sembra di poter dire che no, non esiste un metodo diretto, chiaro, evidente per entrare in contatto con un professionista che sia in grado di fare questo tipo di approfondimenti. Senta, lei ha parlato di costi, è inutile negare, questo può essere un fatto decisivo. Su che cifre siamo? C'è un'indagine media, diciamo, mettiamo su una palazzina di quattro piani, per intendersi, su che cifre siamo? Dunque, per quel che riguarda la valutazione della sicurezza sismica e una magari valutazione preventiva di quello che potrebbe essere necessario fare, quindi non mi riferisco a un progetto esecutivo dell'intervento. No, solo la verifica, solo la valutazione. Preventiva, ma non so, supponendo che ci siano, che questa palazzina abbia in totale, non so, 600 metri quadrati, considerando tutti i piani, qualcosa che va dai 12.000 euro ai 20.000 euro, più o meno. È una stima molto approssimata, nel senso che io ho fatto un calcolo a mente che più o meno si basa su una percentuale del costo di costruzione di una casa con uguale metratura e questa percentuale è attorno, non so, al 2%, però chiaramente questa percentuale varia e cambia man mano che cambia la volumetria o la superficie totale, certo. Diminuisce man mano che l'edificio non è lineare la crescita. Guido Magenes, grazie. Quando è che lei pensa sarà bene risentirci perché avrà altre novità, altri approfondimenti? Tra qualche mese, diciamo, un 2-3 mesi sicuramente si potranno avere informazioni un po' più precise, soprattutto per quel che riguarda anche i casi più significativi, quelli che hanno catturato maggiormente l'attenzione del pubblico perché hanno coinvolto un numero di vittime elevato. Va bene, grazie, buon lavoro allora. Grazie Magenes, buonasera. Grazie a voi. Non so quanti di voi che in questo momento ci state ascoltando hanno sentito anche l'altra puntata della nostra trasmissione, l'altra puntata di Mebius, nella quale vi abbiamo chiesto di andare al nostro sito a vedere un filmato decisamente sorprendente, spettacolare. In questo filmato c'è uno scimpanzé che fa qualcosa appunto di assolutamente strano, insomma, visto da noi umani. Perché vi abbiamo detto di andare a vedere questo filmato? Perché ne avremo parlato in questa seconda puntata e ne parlerò con il mio ospite che è già in linea, Giorgio Vallortigara. Buonasera Vallortigara. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Etologo e neuroscienziato, lei lavora al CIMEC, questo centro di Rovereto che sta nascendo, di cui abbiamo già parlato e che è proprio dedicato all'indagine dei comportamenti mentali in modo molto trasversale, no? Cioè gli animali in senso lato, noi compresi, no? Certamente. Questa è la vostra mission, questa è la vostra ricerca. Bene, allora, vediamo insieme, per chi non l'ha visto, che probabilmente sono tanti, che cosa succede in questo filmato. È diviso in due. C'è un primo filmato in cui uno scimpanzé vede apparire sul monitor una serie di numeri da 1 a 9 e può cambiare, perché vedo che lo cambia lui, insomma, con una sua decisione, può cambiare la disposizione di questi numeri sul monitor, solo che è molto bravo a fare che cosa? A pigiare, seguendo l'ordine, la distribuzione ordinale dei numeri, dei numerali arabi, quindi nell'ordine 1, 2, 3, 4 fino a 9. Ad ogni nuova presentazione i numeri numerali vengono disposti in locazioni, in posizioni diverse, e lui ogni volta deve pigiare nell'ordine giusto 1, 2, 3, 4 e se compie l'azione correttamente ottiene un premio, a un po' di succo di frutta. E fa tutto questo con estrema velocità. Nel secondo filmato quello che noi vediamo, ed è qui veramente la cosa sorprendente, è che riappare la serie di numeri, ma praticamente dopo mezzo secondo questi numeri sono coperti e sono coperti dai dei quadratini bianchi e il nostro scimpanzé deve tenere a mente la posizione dei vari numeri. Quindi quello che succede è, non appena lui pigia il primo numero, il numero 1, delle mascherine coprono tutti gli altri e quindi la posizione del 2, del 3, del 4 te la devi ricordare perché non ce l'hai sotto gli occhi fino alla nona. E quello che è impressionante è che lui la ricorda con una velocità estrema, insomma. E i soggetti umani, dovendo eseguire lo stesso compito, non vanno più in là di due, tre elementi, quindi noi siamo capaci di farlo per uno, due, tre e poi ci fermiamo, compare lì dalla nostra memoria la posizione degli altri numeri. Allora, io vorrei affrontare con lei un tema centrale che viene richiamato da questo tipo di esperimento. Andate a vedere il filmato sul nostro sito e questo vi servirà per capire meglio le cose. Ecco, Vallortigara, lo stesso tipo di memoria visiva molto forte appare, lo vediamo in noi neonati, cioè nei bambini molto piccoli, e la vostra ricerca è una ricerca che cerca di capire che cosa c'è, come dire, alle fondamenta di qualunque comportamento mentale. Precisamente, sì. In un certo senso quello che è strabiliante e interessante nel filmato è la possibilità che esso ci suggerisce che il possesso di certe capacità mentali che sono squisitamente umane, come quelle linguistiche, potrebbero implicare un prezzo da pagare e quindi il venir meno, una riduzione di altre capacità che per esempio noi possiamo aver avuto prima dello sviluppo linguistico. I bambini sono molto bravi a ricordare la posizione spaziale degli oggetti, in alcuni casi sono incredibilmente bravi e questa condizione gli psicologi la chiamano di memoria eidetica, ma è una cosa che sanno tutti i genitori quando hanno provato a giocare a memory o a eseguire compiti similari con i loro bambini. Quello che noi facciamo è di studiare quel genere di capacità e di conoscenze che sono un po' comuni a tutti gli organismi viventi, perlomeno a tutti i vertebrati, e che costituiscono il fondamento della nostra vita mentale. Quindi noi ci interessiamo del numero, dello spazio e della nozione di causalità essenzialmente. E cerchiamo di capire se gli altri organismi, le altre creature che non posseggono il linguaggio verbale, posseggono questo tipo di abilità mentali di base, in che misura, in che quantità e come queste sono eventualmente modificate o meno nella nostra specie sulla base del fatto che noi possediamo invece il linguaggio. Perché praticamente c'è un cervello che si declina specie per specie, anche addirittura soggetto per soggetto, però poi ci deve essere qualcosa in questa macchina che è di base, insomma, che è comune a tutti i viventi. Sì, ci sono dei problemi che tutti gli organismi debbono risolvere. Per esempio, anche se alcune capacità possono sembrare il risultato dell'apprendimento, della cultura, eccetera, prendiamo la matematica, il senso del numero, per esempio, capacità matematiche elementari, rudimentali, sono necessarie a tutti gli animali. Capacità matematiche elementari in ambito per esempio spaziale, cioè una certa conoscenza della geometria, sono necessarie a tutti gli animali e queste costituiscono il fondamento sulla base del quale noi abbiamo poi edificato la matematica formale, la geometria formale, tutto quello che è codificato nei libri. È un progetto affascinante, Vallortigara, ci tenga informati in ogni passo successivo e di successo che potrete ottenere. Grazie. Lo farò senz'altro. Grazie, buonasera. Buonasera. Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. La mano di gomma molto realistica e la mano vera, entrambe punte da uno sperimentatore. Allora, il fenomeno è ben noto ed è ben studiato e si chiama appunto l'illusione della mano di gomma, però non è necessariamente capito. La risposta giusta era la terza. La visione della mano di gomma tende una trappola micidiale alla nostra mente. Ad un certo punto, il semplice vedere la punta che tocca solo la mano di gomma fa sì che noi si provi la sensazione di essere punti. La teoria più accreditata è che la visione sia un senso predominante. La sensazione tattile della puntura sulla mano vera non è accompagnata dalla visione di questa mano, mentre la puntura sulla falsa mano è visibile e tira la corsa anche alla sensazione tattile. Andate al nostro sito e vedrete un video di questo esperimento dalla home page, trovate subito il link. Adesso vi parliamo di tracciabilità dei rifiuti, il che vuol dire sapere dove vanno a finire. Però quello che ci interessa è perché possano andare a finire in qualche posto in modo illecito. Qui con me c'è Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, il tema è questo e diamo però un po' di cifre all'inizio. Esatto, forse è il caso di fornire qualche dato per far capire l'entità di questo come problema. Allora, sono 20 milioni le tonnellate di rifiuti che vengono immesse nel traffico illecito, appunto, fate sparire ogni anno in Italia. Ed è stato calcolato proprio dal CNR che se venissero tutte impilate si formerebbe una montagna di circa 1900 metri, per intenderci un po' più alto del Resegone, per chi lo conosce, in provincia di Lecco, o addirittura il doppio del Monte Capanne all'Isola d'Elba. Beh, sono quasi 2000 metri. Per farti capire. E tutto questo frutta la criminalità organizzata circa 22 miliardi di euro all'anno. Allora, qui noi ne parliamo perché di fronte a questa montagna di rifiuti illeciti si può fare qualcosa. Abbiamo un ospite. Sì, qui parliamo appunto della tracciabilità dei rifiuti attraverso dei dispositivi radioelettronici ma anche satellitari, ma comunque ci spiega tutto Vito Felice Uricchio dell'IRSA CNR di Bari, che qualche giorno fa ha partecipato ad un convegno sul tema. Buonasera Uricchio. Oh, salve, buonasera. Buonasera. Dunque, ci spieghi quali sono queste tecnologie? Cosa bisogna mettere nei sacchi o nei mezzi di trasporto? Allora, sì, di fatto si tratta di un sistema innovativo con dispositivi tecnologici basati su agenti intelligenti e le spiego molto semplicemente di cosa si tratta. Ecco, sì. Di fatto è possibile tracciare sia la materia che anche i vettori di trasporto. Allora, la materia è possibile tracciarla attraverso dei piccoli francobollini, che sono degli RFID sostanzialmente, dei dispositivi elettronici che sono composti da un microchip e da un'antennina invisibile. Ecco, come i chip delle carte di credito, per intenderci? Esattamente. Ovviamente molto più piccoli, perché hanno la dimensione, dicevo, quindi di un francobollo, quindi estremamente piccoli. E vengono messi nella spazzatura? Esattamente, che possono essere direttamente buttati nella spazzatura. Tra l'altro il loro bassissimo costo lo consente, perché attualmente il costo di ciascuno di essi varia da 2 a 10 centesimi di euro, quindi veramente poco. Molto poco. E questi lanciano dei segnali a una centralina? Esattamente, loro diciamo trasmettono delle informazioni, è possibile anche richiedere informazioni, quindi attraverso delle unità transponder, diciamo da remoto è possibile chiedere informazioni e quindi sapere esattamente dove sono e anche che cosa sono. Quindi è possibile ricostruire insomma il percorso del mezzo di trasporto, capire se si ferma a delle fermate intermedie dove in realtà non si dovrebbe fermare o se non arriva al sito di stoccaggio? Assolutamente sì, è anche esatto, è possibile seguire tutto ed è anche possibile riconoscere il comportamento dell'autista, quindi attraverso diciamo una lettura integrata delle informazioni che viene fatta attraverso sistemi di data mining e di knowledge discovery, è anche quindi possibile riconoscere diciamo la stessa tipologia di guida dell'autista del mezzo e quindi anche verificare dove è stato dove è stato scaricato un determinato rifiuto. Va bene, allora abbiamo capito di che cosa si tratta, che tipo di informazioni dà, ma come le trasmette? Allora, diciamo che il trasferimento dei dati di posizionamento e anche del tipo di rifiuto che si sta conducendo può avvenire in due modi diversi. Sì. Può avvenire attraverso un sistema GPRS, GSM, di fatto attraverso una telefonata, sempre realizzata attraverso questo sistema che rientra nel francobollino sostanzialmente. La tecnologia dei telefonini cellulari. Esattamente, oppure attraverso un sistema di trasmissione satellitare. In questo momento si utilizza come posizionamento il GPS, però entro il 2012 saranno posti in orbita altri 30 satelliti nell'ambito del programma Galileo, che è un programma dell'Agenzia Spaziale Europea, e questo consentirà di poter potenziare molto questa informazioni sul posizionamento. Ecco, adesso siamo in fase di sperimentazione. Ci saranno delle applicazioni? Possiamo prevedere che siano applicate in tempi brevi? Assolutamente sì, di fatto con questo sistema possiamo tracciare la materia, quindi lo spostamento del rifiuto di qualsiasi altra materia, possiamo tracciare anche i vettori di trasporto e possiamo anche verificare, come dicevo prima, l'interazione tra materia e trasporto, quindi vedere dove ci sono carichi e dove ci sono scarichi. Va bene, allora buon lavoro, insomma, ci faccia sapere quando questa tecnologia verrà applicata, ne riparleremo. Va bene, certamente, grazie. In realtà, Chiara, più che avvisarci lui, dovremmo saperlo, credo, dai giornali, dalle cronache, perché se funziona, Dovrebbe far notizia. Va bene. Senti, adesso invece parliamo di una macchina molto onesta che fa il suo lavoro sui rifiuti e non è assolutamente bandito, non è illecito. No, si chiama Dustcart ed è il gemello italiano di Wall-E, il mitico robottino spazzino. Sì. E io ho intervistato uno dei suoi papà. Sentiamo. 700 anni nel futuro. L'umanità abbandonerà il nostro pianeta, lasciando la pulizia della Terra nelle mani di una macchina incredibile. È Wall-E, l'ultimo robot della Terra, programmato per pulire il nostro pianeta. Ma in tutti questi anni, Wall-E ha sviluppato una piccola anomalia. Una personalità. La personalità di Wall-E, il robottino spazzino della Disney Pixar, ha conquistato tutti. Un po' perché senza dire nemmeno una parola è riuscito subito a suscitare simpatia e tenerezza. In un film d'animazione carico di umanità, alternato ad elementi di pura fantascienza. E devo dire che la stessa simpatia la suscita il gemello italiano di Wall-E. Si chiama Dustcart ed è stato progettato nei laboratori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Lui si muove per le vie della città raccogliendo porta a porta il sacco dei rifiuti. Ecco, avete un po' cambiato il modo di concepire la raccolta differenziata casa per casa, Ferri? Sì, l'idea appunto è quella che il cittadino chiama questo robot, che andrà a casa appunto del cittadino registrato al sistema, raccoglierà la spazzatura e la porterà a un centro di raccolta organizzato. La voce che avete sentito è di uno dei papà di Dustcart, è un ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In realtà voi siete un pool di ricercatori che hanno realizzato e in questo periodo perfezionato, vogliamo dirlo, il robottino spazzino. Dunque, Ferri, allora ci spieghi che aspetto ha Dustcart e come funziona? Allora, Dustcart ha un aspetto, è basato sulla piattaforma commerciale Segway, quella è una piattaforma che ha due ruote, che viene usata anche per il movimento delle persone. Sopra ha un frame metallico con le varie schede elettroniche appunto per il funzionamento del robot e sopra ha una cover in vetroresina che appunto ricrea una figura, diciamo, rotondeggiante anche per dare un'idea di sicurezza al cittadino. Gli dà un aspetto simpatico. Sì, e in cima a tutta la struttura c'è una testa con degli occhi e con dei LED, che i LED si illuminano in maniera diversa a seconda di cosa sta facendo il robot, per esempio verdi se può ricevere una chiamata, oppure rosso se c'è stato un guasto, e poi ha un touchscreen col quale il robot interagisce con l'utente. Il robot arriva a casa del cittadino e il cittadino interagisce tramite il touchscreen e quindi può far aprire un cestino che raccoglie la spazzatura, oppure può richiedere anche altre informazioni del tipo date ambientali, perché anche il robot ha a bordo anche dei sensori ambientali, oppure altre informazioni, per esempio informazioni sulla città, farmacie di turno, cinema, cosa faranno i cinema la sera, una Quindi, cosa del genere. Fornisce anche informazioni attraverso questo touchscreen, ma andiamo con ordine. Lei parlava di una chiamata, cioè può essere chiamato telefonicamente? Allora, il robot è chiamato telefonicamente. Dall'utente che ha bisogno? Sì. L'utente è registrato a questo sistema appunto di raccolta, quando chiama digiterà un codice personale, il robot appunto in base al codice sa dove deve andare, arriva a casa dell'utente, manda un messaggino all'utente dicendogli sono arrivato, sì. L'utente scende, immette il proprio codice e a quel punto lì può interagire col robot, nel senso può far aprire un cassetto dentro il robot, seleziona il tipo di spazzatura che sta inserendo e in base al tipo di spazzatura il robot sa dove andare anche per fare una raccolta appunto differenziata di questi rifiuti. E una volta arrivato appunto al punto di raccolta, scarica la spazzatura e è pronto per una nuova chiamata, per un altro utente. Ok, quindi può raccogliere un sacchetto alla volta. Per ora sì, anche per un problema di raccolta differenziata, perché altrimenti bisognerebbe avere diversi cassetti per evitare di mettere tutto insieme, perché altrimenti andrebbe differenziata al momento del deposito, dello scarico. Ecco, quindi è stato studiato più che altro per i centri urbani piccoli oppure quelli a traffico limitato, cioè dove le macchine e i mezzi della nettezza non possono passare. Sì, l'idea appunto è per soprattutto nei centri urbani a traffico limitato dove ci sono problemi appunto di movimento da parte dei servizi della nettezza urbana. Inoltre c'è il problema che uno deve lasciare la spazzatura in giorni predeterminati e quindi tenere in casa la spazzatura per diversi giorni. Per esempio nel caso dell'organico questo può essere un problema. Invece con questa idea di questo sistema uno potrebbe chiamare il robot quando ha il sacchetto pronto, quindi si evitano anche attese in casa di rifiuti che potrebbero essere. Insomma. E sente, come la mettiamo con i dossi marciapiedi? Lui si districa. La mettiamo che lui ha una serie di sensori a bordo, sia ultrasonici, sia laser, sia infrarossi, con i quali lui riesce a riconoscere la presenza di ostacoli. Quindi il sistema di navigazione ha un sistema satellitare che viene gestito anche in remoto da questo sistema che gestisce tutto l'operato dei robot, un sistema di ambient intelligence che fornisce le mappe al robot della città. Il robot inizia a muoversi verso la sua destinazione e durante questo movimento evita appunto gli ostacoli con i sensori detti prima e quindi riesce a evitare le persone, le biciclette e anche i marciapiedi, riesce a riconoscere un marciapiede e a costeggiarlo. Benissimo, si muove senza problemi. Questa è l'idea. Quanto costa un robottino di questo genere? Cioè può essere facilmente acquistato da un'amministrazione comunale anche modesta? È chiaro, ancora siamo alla fase della prototipazione, quindi i prezzi sono difficili fare un'idea dei prezzi, però ad oggi potrebbe costare uno di questi robot sui 20.000 euro per ora, però il prezzo può scendere sia soprattutto perché magari in un futuro si potrebbe pensare di cambiare la piattaforma Segway e passare a piattaforme più economiche, e sia ovviamente se ci fosse richiesta un'economia di scala su questi robot farebbe crollare i prezzi, quindi si può pensare di arrivare, io credo, questa è un'idea personale, verso 7-8 euro, una cosa del genere. Benissimo, quindi tranquillamente acquistabile, anzi costerebbe molto meno di un mezzo della nettezza urbana tradizionale. Tra pochi giorni il robotino si presenterà anche al pubblico cittadino, cioè scenderà in piazza, cioè precisamente il 9 maggio a Pontedera in provincia di Pisa sarà tra la gente, lo presenterete al pubblico? Sì, allora il 9 maggio ci sarà la presentazione del robot nel pubblico e farà delle raccolte nella piazza centrale appunto di Pontedera, verrà chiamato via telefono, farà il suo compito di raccolta, andrà a scaricare e tornerà in un punto dove lui si ricarica e dove aspetta una nuova chiamata. Verrà fatta questa dimostrazione sperando che vada tutto bene. Noi ovviamente aspettiamo notizie, fotografie e quant'altro. Va bene, allora buon lavoro Ferri. Grazie, arrivederci. Allora, questa puntata finisce parlando di rifiuti, ma in fondo con delle soluzioni interessanti. Vi ricordo che sul nostro sito, per quanto riguarda il robottino, bene, troverete un link nel quale si vede come funziona questo simpatico oggetto. Grazie, buona serata a tutti e tutte, ci sentiamo la prossima settimana.